Incontri di Gianfranco Fabi. Looking down, kind of puzzled, poking that dog with a stick. Got his car door flung open. Buon pomeriggio e buona domenica a quanti ci ascoltano. Erano le note di Bruce Springsteen, Reason to Believe, la ragione per credere, ed è il brano scelto dal nostro ospite di oggi, che ringrazio di essere con noi in questo pomeriggio. Il nostro ospite è Massimo Cioffi. Buongiorno, dottor Cioffi. Buongiorno. Massimo Cioffi, direttore del personale e organizzazione dell'Enel, milanese, 50 anni, e ha una lunga esperienza nell'ambito della direzione delle risorse umane di grandi aziende. Ecco, ma io comincerei da questa canzone da Bruce Springsteen, La ragione per credere. Qual è questa ragione per lei? La ragione per credere è che ci sia comunque sempre la possibilità di fare qualcosa di meglio rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi, quindi che si possa fare un passo avanti nella crescita, nello sviluppo, nella conoscenza. Ecco, questo 2011 si è aperto con tante incertezze, siamo nell'età dell'incertezza, siamo nell'età del cambiamento. Se lei avesse qualcosa da sperare per questo 2011, non tanto a livello personale, un po' a livello globale, qual è forse il suo sogno di concludere l'anno con qualche buona notizia? Ma sicuramente che si possa trovare un maggiore equilibrio, una maggiore possibilità per tutti di poter vivere meglio. Insomma, credo che sempre sia possibile fare qualcosa per vivere meglio, e ognuno può fare la sua parte. Assolutamente sì, poi ognuno può fare la sua parte e insieme se ne può fare comunque una forse anche maggiore. Ecco, lei è appunto direttore delle risorse umane di un grande gruppo. Quante persone ha direttamente o indirettamente sotto controllo? Ma non è un controllo, io devo cercare di svolgere il mio lavoro, che è rendere disponibile per l'azienda le risorse in termini qualitativi e quantitativi necessari, e in questo anche favorire ovviamente la motivazione dei dipendenti allo stare nell'ambito del gruppo. Quindi non parlerei di controllo, direi che in Enel oggi lavorano circa 79.000 persone in tutto il gruppo. Però lei si sente un po' responsabile di ciascuno e di tutti? Certamente sì, perché comunque la motivazione delle persone, la loro soddisfazione rispetto al lavoro, i risultati passano anche per l'attività della direzione del personale, quindi non è certamente solo il risultato del mio lavoro, il risultato di una funzione che ha un compito critico da portare avanti. Ecco, Massimo Cioffi, lei quando era piccolo cosa avrebbe voluto fare da grande? Ma quando ero piccolo avrei voluto fare il matematico, dopodiché le cose sono andate in modo diverso, e ho fatto poi economia politica all'università con la specializzazione in statistica e ricerca operativa, quindi qualcosa delle mie ambizioni da giovane me le sono portate dietro, e poi la vita si è sviluppata all'interno di aziende grandi e sempre nella funzione. Beh, però è in fondo un po' bizzarro questo fatto di essere portati per la matematica e quindi per la massima razionalità, e poi trovarsi a fare il direttore delle risorse umane, e gli uomini di razionale hanno molto, ma hanno anche molto di razionale, di emotivo, di intuitivo. Beh, certamente l'uomo è più complesso del numero, dopodiché nei numeri si possono trovare anche, come dire, dimensioni non completamente razionali, talvolta difficili da spiegare. Ci sono anche dei grandi temi irrisolti nella matematica, quindi la ragione non sempre ci arriva. La ragione però è necessaria, guardare con razionalità le cose, ma metterci anche quella dose di emozione, quella dose di, in fondo, di piccola pazzia che ognuno ha. Beh, sicuramente sì, anche perché se fosse tutto razionalità e meccanica non sarebbe probabilmente neanche tanto divertente. Ecco, la prima azienda in cui lei ha fatto il direttore di risorse umane è stata l'Olivetti. Beh, diciamo, quella è la prima azienda in cui ho lavorato e ho iniziato a lavorare nell'ambito della funzione risorse umane, quindi lì mi sono formato dal punto di vista professionale non ho mai fatto il direttore del personale nell'ambito di Olivetti, ho sviluppato la mia carriera all'inizio, appunto, quindi dai 25 ai 35 anni. Qual è quello che ha più vivo come messaggio di questa prima esperienza professionale? Ma sicuramente l'essere vicini alle persone. L'essere vicini alle persone, comprendere quello che il ruolo sociale dell'impresa, dove ruolo sociale significa che cosa fa l'impresa nel contesto socio-economico nel quale è inserita. E poi la grande attenzione appunto per le persone, la loro motivazione, la loro spinta a crescere, i loro bisogni, le loro aspettative. Me lo sono un po' portato dietro. D'altronde Olivetti è stata una grande scuola di management in Italia e l'ambizione un po' poi condivisa ovviamente con l'amministratore delegato di Enel è quella di fare di Enel oggi una scuola di management. Una scuola anche di responsabilità sociale, perché si parla molto di responsabilità sociale, si è parlato molto di responsabilità sociale in questi ultimi anni, però appunto esperienze come quella di Olivetti magari se ne parlava meno, ma si praticava la responsabilità sociale in quelle aziende. Sicuramente lo stimolo, la spinta e diciamo l'idea fondativa della famiglia Olivetti rispetto all'azienda ne ha tracciato molto molto la storia. Ivrea, dove appunto aveva sede la Olivetti, era una città che ovviamente aveva una sua vita, ma era una vita dove l'azienda aveva un ruolo molto molto importante. Ecco, nella sua storia professionale, che ovviamente va avanti, non si può parlare di storia ma di cronaca, lei è passato da gruppi privati a gruppi pubblici, è passato all'Italcementi, mi sembra, sì. E poi a Terna, poi a Enel, che è un gruppo pubblico-privato, non so come definirlo, ma sicuramente è qualcosa, ha un grande compito pubblico, anche se è una società quotata in borsa che rispetta tutte le regole delle società private. Ecco, c'è una differenza in questi passaggi nel guardare all'azienda? Ma sicuramente un po' di differenza c'è, perché la presenza dell'imprenditore certamente determina anche il modo con cui l'azienda opera, lavora, si comporta quotidianamente. Io però non definirei Enel oggi un gruppo pubblico, la definirei una multinazionale, una delle poche multinazionali italiane. D'altronde siamo presenti con delle attività di gestione e di esercizio degli impianti in 24 paesi, che si muove tenendo conto che Enel fa un mestiere che ha un grande impatto sul contesto socio-economico, nel senso che l'energia elettrica è un servizio pubblico, certamente un servizio pubblico risponde a un'esigenza di benessere sociale, di sviluppo sociale, e questo chiaramente è un fatto che quotidianamente noi ci troviamo a dover governare, gestire ed indirizzare. Ecco, all'interno della struttura, all'interno del personale dell'Enel si può dire che c'è un concetto, una prospettiva proprio di impresa privata che ha una missione pubblica, di un'impresa che deve guardare all'efficienza e al profitto, ma che deve anche rispettare delle potenzialità di risposta alle esigenze del mercato, alle esigenze dei cittadini e delle imprese. Assolutamente, assolutamente sì, anche perché il guardare all'efficienza non è solo un fatto di generare del profitto, ma è molto molto importante ancora di più se si ha un ruolo, se si eroga un servizio pubblico, perché questo significa poter erogare un servizio pubblico a costi via via crescenti. Quindi l'efficienza è importante per il profitto, ma è anche importante. Forse a costi via via decrescenti, cioè sì, costi sempre certamente. Cercando di ridurre i costi e quindi di favorire anche i consumatori. In questo anche la spinta del mercato può essere, è positiva, perché c'è concorrenza all'interno del settore elettrico. Assolutamente, all'interno del settore elettrico in modo diverso nei diversi paesi c'è una concorrenza anche molto molto forte. Se pensiamo all'Italia, oggi gli operatori del settore elettrico sono alcune centinaia, quindi rispetto a solo 15 anni fa, quando erano un numero molto molto esiguo e Enel di fatto lavorava in regime di monopolio, oggi il mercato c'è. E dal punto di vista della dinamica dei prezzi dell'energia, un risultato sicuramente si è letto anche sulle bollette. Ecco, lei ha detto che l'Enel è presente in 24 paesi con proprie strutture operative. Nell'ambito proprio della gestione delle risorse umane, questo vuol dire che ci sono 24 modi di gestire queste persone che lavorano nell'ambito di un gruppo, però ognuna nel singolo paese? Beh, ci sono sicuramente 24 modi diversi che discendono dai diversi assetti anche contrattuali relativi al rapporto di lavoro dei paesi in cui siamo presenti. La nostra ambizione, che peraltro non rimane solo un'ambizione oggi, ma alcuni passi sono già stati fatti in questo senso, è quella di avere un sistema di gestione delle nostre persone che sia unico e definito a livello di gruppo e che deve trovare poi la sua specializzazione locale. È un po' un cambio di prospettiva, se vogliamo. Fondamentali che siano uguali per tutti e poi con delle specificità nazionali. Assolutamente sì, e in questo senso e per questo siamo proprio partiti lavorando sul management e definendo da un lato quelli che sono i comportamenti che ci aspettiamo dal nostro management indipendentemente dal paese in cui opera, e abbiamo chiamato questo insieme di comportamenti il nostro modello di leadership, e poi definendo un sistema di gestione e di crescita del management all'interno dell'azienda che è assolutamente lo stesso in tutto il mondo. Ecco, il paese in cui siete più presenti è la Spagna, mi sembra, o dopo l'Italia ovviamente? Dopo l'Italia sì, dopo e l'Italia poi? Perché in Italia abbiamo circa 38.000 dipendenti dei 79.000, in Spagna sono circa 11.000, poi abbiamo la Slovacchia, la Romania, la Russia e 5 paesi del Latin America. Incontri. Still at the end of every hard day, people find some reason to believe. Number Lulu of Johnny, with a love mean and true. Ancora con Bruce Springsteen, buon pomeriggio a quanti ci ascoltano, buon pomeriggio anche a Massimo Cioffi, direttore personale dell'organizzazione dell'Enel, che ci fa compagnia in questo incontro. Nella prima parte abbiamo parlato della sua esperienza, un'esperienza prima in Olivetti, poi in Italcementi, adesso alla guida delle risorse umane, la responsabilità delle risorse umane in questo grande gruppo con 80.000, mi diceva, dipendenti, circa 80.000, e che è presente peraltro con proprie unità in 24 paesi. Parlavamo appunto per esempio della Spagna, che è la seconda nazione dove con più di 10.000 dipendenti, che sono quelli che erano di Endesa, che è entrata a far parte, esatto, dell'Enel, è appunto ormai all'interno di questo gruppo. E parlavamo delle differenze di queste realtà. Qual è la differenza maggiore a livello proprio di gestione manageriale tra Italia e Spagna? Ma abbiamo sicuramente un vantaggio che ci deriva dal fatto che in qualsiasi paese dove noi siamo presenti, ma credo sia un po' una caratteristica di chi lavora nell'ambito delle aziende elettriche, troviamo due elementi che sono assolutamente ricorrenti. Il primo, il grande orgoglio e senso di appartenenza, e il secondo, l'idea che si sta facendo qualcosa di assolutamente importante per il sistema socio-economico nel quale si lavora. E questo lo riscontriamo attraverso l'indagine di clima che facciamo ogni 2 anni, e questi sono i due fattori assolutamente comuni. Su questo ovviamente si innestano le differenze. Tanto per stare alle cose più semplici, se vogliamo, Italia e Spagna c'è una percezione diversa della forma. In Italia forse siamo un po' meno formali, in Spagna c'è un po' più, come dire, di ricerca anche di segni esterni rispetto al proprio ruolo, rispetto al ruolo che si vive all'interno dell'azienda. L'Italia è un sistema dove, come tutti gli italiani, anche in Enel, l'obiettivo è quello di cercare una soluzione, di cercarla avendo alla fine tutti gli interlocutori che sono mediamente soddisfatti della situazione che si è trovata. Questo non vuol dire pasticciare, vuol certo. dire ovviamente ritrovare un punto di equilibrio complessivo. In Spagna forse c'è più una tendenza a mantenere in maniera continuativa nella relazione la propria idea, la propria posizione iniziale. Ecco, e guardando un po' ai giovani che entrano in azienda, ai laureati, qual è la differenza maggiore che vede all'interno, magari anche oltre la Spagna, lei parlava di Romania, di Slovacchia, dei giovani laureati di questi paesi rispetto ai giovani laureati italiani che entrano appunto in azienda? Ma qui la grande distinzione la possiamo fare tra i paesi dove lo sviluppo è uno sviluppo già compiuto e i paesi che sono ancora in via di sviluppo o che stanno vivendo oggi un momento importante di crescita. In particolare mi riferisco ai paesi dell'Europa dell'Est e dell'America Latina. Dal mio punto di vista, i giovani dei paesi in via di sviluppo che stanno crescendo in maniera importante oggi sono molto più determinati, hanno molta più, tra virgolette, fame, che si traduce in determinazione, in voglia di riuscire, in ambizione, in risultati anche scolastici spesso migliori. Ecco, Enel, anche da indagini fatte recentemente, è risultata una delle aziende più appetibili da parte dei giovani, in cui i giovani vorrebbero andare a lavorare dopo la Ferrari, ma si può capire anche il mito della Ferrari, molto diverso indubbiamente da quello del produttore di energia elettrica. Qual è il motivo di questa attrattibilità, di questo fatto di essere simpatici in fondo agli occhi dei giovani? Ma questo per noi è stato un grande successo. Quello a cui lei faceva riferimento è un'indagine che è stata fatta tra i laureati e i laureandi delle facoltà scientifiche in Italia e ci hanno indicato appunto come la miglior scelta dal loro punto di vista dopo Ferrari e dopo Google. Google e anche certo. Qua si capisce il perché. Per noi è motivo di soddisfazione perché partivamo veramente dalle parti basse della classifica, quindi è stata una grande scalata e da questo punto di vista credo che siano sostanzialmente due gli elementi. Da un lato la crescita importante che ha avuto Enel all'estero, che ha consentito anche di trasferire non solo ai giovani, però anche ai giovani l'idea che questa sia un'azienda che cresce, dinamica, che assume delle sfide assolutamente importanti e cerca di portarle a casa e le porta anche a casa in termini di risultati. Con un perimetro così ampio aumentano ovviamente le opportunità di poter lavorare in contesti diversi, quindi di sviluppare un'esperienza internazionale anche avendo una laurea di tipo tecnico, quindi è un fatto che oggi è rilevante per i giovani. E poi credo anche come ulteriore elemento di attrattività il fatto che noi abbiamo fatto un grosso sforzo in termini di presentazione dell'azienda nei diversi atenei italiani, dove rappresentiamo sia il perimetro internazionale sia le prospettive poi di carriera. E quindi il fatto di trasferire l'esistenza di un percorso, l'esistenza delle opportunità, certamente fa sì che i giovani si sentano attratti da un'azienda di questo tipo. Quante persone, penso soprattutto giovani, assumete ogni anno in Enel? Quanti ne assumerete nel 2011? Beh, nel 2011 stiamo ancora un po' consolidando le nostre previsioni. Diciamo che l'anno scorso, a livello complessivo di gruppo, ne abbiamo assunti più di 2.500. In Italia ne abbiamo assunti poco meno di 1.000. In prevalenza diplomati tecnici e laureati delle facoltà scientifiche. Qualche laureato in filosofia l'avete assunto? Ma così a memoria non ricordo, però talvolta sicuramente capita, soprattutto per le funzioni di staff, diciamo, in particolare per la funzione personale. Ecco, un giovane che uscendo dalla scuola superiore voglia pensare di entrare in un grande gruppo come Enel, che cosa, quale percorso professionale dovrebbe fare? Ma diciamo, stiamo parlando di neolaureati e neodiplomati, più che un percorso professionale da fare prima di entrare, bisogna avere alcune caratteristiche, diciamo. Intanto essere consapevoli del fatto che il lavoro non viene dove sei tu, ma sei tu che devi andare dove c'è il lavoro, e quindi devi avere per certo una disponibilità a muoverti sul territorio, dove il territorio può significare 50 km da casa piuttosto che una 2000. Disponibilità ad andare all'estero, magari anche più di 2000 se parliamo delle Americhe. E poi devi avere un buon curriculum scolastico, quindi devi aver studiato con profitto. Certamente per i laureati la conoscenza della lingua inglese è un fatto assolutamente fondamentale, anche tenendo conto del fatto che oggi noi abbiamo dei percorsi di inserimento dei giovani che prevedono un programma di formazione sviluppato a livello di gruppo e che è completamente fatto in lingua inglese. Quindi si può puntare appunto a entrare in un grande gruppo e si può puntare anche a fare carriera. I tempi di una... per fare carriera ovviamente dipendono da persona a persona. Ci possono essere dei dirigenti anche molto giovani, ci sono? Ma assolutamente sì, cioè la carriera poi è un fatto da un lato di opportunità e quelle le deve mettere l'azienda, e credo che in Enel ce ne siano a sufficienza, ma d'altro canto è anche un fatto di capacità e competenze individuali. Oggi noi abbiamo dei responsabili di centrali di produzione, così come dei responsabili di aree territoriali di manutenzione della rete, che sono dei trentenni. Questo 10-15 anni fa sarebbe stato impossibile. Ecco, siamo purtroppo in conclusione, potremmo parlare di molte altre cose. Lasciamoci con un augurio per questo ancora, dopo averci fatto tanti auguri dei giorni scorsi, per questo 2011. Magari guardando più all'Enel, l'Italia ormai ha tanti problemi. Guardiamo all'Enel, quale pensa possa essere la missione da approfondire in questo 2011? In questo 2011, per quanto riguarda in particolare poi il mio mestiere, è riuscire a fare un ulteriore passo in avanti per aiutare questa azienda a trasformarsi in una multinazionale riconosciuta in tutto il mondo e che sia veramente una scuola di management. Allora, auguri per questo 2011 a Massimo Cioffi, che ci ha fatto compagnia in questo pomeriggio, direttore personale e organizzazione dell'Enel e anche vicepresidente esecutivo dell'Enel, riporta direttamente all'amministratore delegato, e quindi lo ringraziamo, così come ringraziamo in regia Carmelo Loricella, in redazione Anita Paunizza. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie dottor Cioffi, grazie a quanti ci hanno ascoltato.